dentro me è ancora giorno e senza risveglio tu dimmi che notte c'è, se c'è. Forse un sole spento, quello che sento e che brucia in fondo all'anima, senza più attese, senza alcuna dignità. Ho tanta paura di noi due, che sia soltanto neve già. Spento è quello che sento e che brucia in fondo all'anima, senza più attese, senza alcuna dignità. Ho tanta paura di noi due, che sia soltanto anima mia, mentre vai via, e così sia, così sia, se tu vai via.